A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Chi segue questo blog non ha interesse a confrontarsi sui contenuti, ma a offendere, a umiliare dal punto di vista sessuale. Quindi questa è una cosa veramente che è inaccettabile. Questi sono, come dire, quasi dei potenziali stupratori. Quando ho accettato l'amicizia di quel collega, non avrei mai pensato di trovarmi dentro una trappola di commenti pornografici. Ogni volta che aprivo Facebook avevo paura. Frasi oscene, foto. Sono riuscita a mettere fine alle molestie soltanto quando l'ho denunciato davanti a tutti. Capita sempre più spesso e con sempre più cattiveria. Capita a donne normali e ancor di più a personaggi pubblici. Capita alle più giovani come a madri di famiglia. C'è il più delle volte uno sfondo sessuale dietro l'onda di violenza al femminile montata sul web, un linciaggio minaccioso che mescola invettiva politica ad aggressione sessista quando poi si tratta di volti delle istituzioni come Laura Boldrini o comunque di personaggi pubblici. Sono tutte molto simili, ma sono anche tutte molto diverse tra loro, le storie delle violenze sulle donne nate da internet. Lo dicono le inchieste della Polizia Postale con la forza di un numero che non lascia scampo. Il 90% delle aggressioni sul web è contro il gentil sesso. Sono quelle più feroci, quelle che minacciano di passare dal virtuale al reale, ma per fortuna solo in pochi casi, ricostruiamo, questo avviene. Pochi casi, ma non così rari, come sentiremo in questa puntata di A Ciascuno il Suo, dentro l'odio del web contro le donne. Un odio esploso sotto lo sguardo degli infiltrati delle forze dell'ordine nella grande rete, la Polizia Postale. A capo della direzione investigativa c'è Carlo Solimene. Si parte da un assunto che gli utenti molte volte dimenticano, che la traccia sul web, la traccia informatica, è una traccia investigativa a tutto tondo, è una traccia investigativa che riprende integralmente una possibilità di poter poi arrivare all'identificazione del responsabile. Lei sottolinea questo perché un aspetto di questa esplosione di un'aggressività sul web, in particolar modo contro le donne, può essere dettato dalla errata convinzione che quel che si dice e quindi anche le minacce che passano attraverso social network o la rete possano restare senza una identificazione perfetta. È questo che porta anche all'aumento della violenza? Ma diciamo che l'emotività nel comportamento dell'utente è certamente molto frequente. D'altra parte non si rende conto, proprio perché un comportamento emotivo istantaneo, diciamo di immediata rimessa, non si rende conto che invece quel comportamento, quella minaccia, quell'attività di stalking è un'attività che ha innanzitutto una sua caratura penale, ma soprattutto che a fronte di quella sua caratura penale vi è la possibilità di poter identificare il soggetto, chiamiamolo aggressore. Ecco, direttore, che cosa dicono le vostre inchieste? Le donne sono nel mirino di questo tipo di aggressione in quale percentuale di casi? Per quanto concerne lo stalking, nella gran parte. Diciamo che abbiamo una fortissima percentuale, potremmo definirla intorno al 90%. Abbiamo dei dati che riguardano il 2012 e il 2013 e diciamo che soprattutto per quanto concerne lo stalking abbiamo un certo aumento delle denunce per l'anno 2013 che sono praticamente di fatto raddoppiate. C'è da dire però questo, io non farei... Ci sa dare qualche cifra? Sì, diciamo che nell'anno 2013 abbiamo circa 100-150 denunce sul territorio nazionale attraverso i nostri compartimenti, mentre nell'anno precedente erano la metà. Questo però, attenzione... Sono ancora molto poche però, o è soltanto un'impressione? Cioè, sono le denunce sono ancora molto poche rispetto all'entità del fenomeno? Direi che l'entità del fenomeno è un fenomeno certamente allarmante, ma non è certamente un fenomeno simile a quello di altri paesi. Diciamo che le campagne di educazione alla prudenza, alla legalità sul web sono ormai molto seguite. Neanche le nuove norme hanno, secondo me, in parte scoraggiato soggetti ad operare il web per attività di minaccia, ma soprattutto di stalking. Possiamo leggere in due modi questo dato. Da una parte possiamo leggere che c'è il raddoppio delle denunce, da un'altra parte possiamo anche dire che chi ha denunciato è sicuro di poter avere una risposta certa. E poi non ci dimentichiamo di un'area grigia. L'area grigia è tutta quella che è l'attività, diciamo, precedente rispetto alla denuncia e che di fronte magari a una prima, a atti precursori per le minacce, per lo stalking, eccetera, eccetera, può portare certamente a un ravvedimento operoso o comunque un componimento prima ancora dell'attività, diciamo, giudiziaria, e quindi dell'eventuale querela, dell'eventuale denuncia, dell'eventuale esposto. Quello che sta avvenendo è anche una forma di aggressività, diciamo, diretta verso personaggi pubblici. Ci accorgiamo soprattutto che queste si svolgono ovviamente sul web, avvengono sul web, ma dobbiamo anche dire che troviamo anche commenti sui vari social network, eccetera, eccetera, e commenti che non sempre sono di natura positiva. D'altra parte, magari impadronendosi o sostituendosi a una persona rispetto a un'altra, ecco, un falso profilo Facebook, un falso profilo di un altro social network, certamente può essere, come devo dire, patologico rispetto ai problemi di quali abbiamo trattato. Stanno aumentando i casi di fake, appunto, di falsi profili? Sì, diciamo che anche su questo noi ci battiamo molto, lo facciamo per la verità anche in collaborazione con i vari social network. Quindi vuol dire che i vari social network, da Facebook a Twitter, insomma, e tutti quanti gli altri, in qualche modo collaborano con voi nell'identificazione dei falsi profili, giusto? Diciamo che noi lo facciamo attraverso i canali ufficiali. Lo fate ancora da un punto di vista investigativo, però in qualche modo trovate una collaborazione da parte loro? Sì, certamente sì, sono interessati anche a loro che il mezzo sia un mezzo usato adeguatamente in maniera prudente. E se questo è vero su questo aspetto, ecco, il fronte collaborativo da parte delle varie società che hanno un'interfaccia sul web è aumentato nel tempo con voi, nel momento in cui vi trovate ad indagare ad esempio su casi di stalking? Trovate un aiuto da parte dei vari, appunto, titolari dei social network oppure dai vari provider nel fornirvi quelle tracce che vi permettono di arrivare all'aggressore? Ma noi siamo un servizio di polizia giudiziaria, la polizia postale, per cui ci muoviamo nei canali ufficiali attraverso la magistratura italiana. Quello senza dubbio, certo, per cui sono costretti a farlo. Abbiamo le collaborazioni che poi... È ovvio che con un mandato lo debbano far per forza, però poiché è ancora... Ma io le ho detto non di un mandato, io le ho parlato di una collaborazione che invece viene comunque offerta proprio per velocizzare quelli che sono i tempi di reazione. Invece ci sono molte notizie di cronaca di zero collaborazione anche nel momento in cui bisognerebbe fornire dei dati che permettono, come nell'ultimo caso, di rintracciare una persona che è accusata di reati gravi come di omicidio, insomma. Ma diciamo che la Polizia Postale delle Comunicazioni ha da tempo peraltro avviato rapporti di collaborazione internazionale con moltissime e le più grandi agenzie di polizia europee e, diciamo, anche americane. Per cui ci muoviamo in un campo internazionale che ovviamente è quello del web. Voi notate che abbiano per lo più un dominio straniero alcuni siti su cui più spesso vi capita di individuare degli illeciti? Diciamo che abbiamo, dipende dal tipo di reato, ne abbiamo magari su delle truffe e-commerce, ci spostiamo su provider stranieri, o magari invece ci troviamo in altri tipi di reati, magari troviamo delle risposte anche molto nazionali. Sentire questi racconti sembra dunque che nella rete si nascondano davvero angoli bui di misoginia e luoghi per una donna più pericolosi di quel buio del bosco raccontato nelle favole a tutte le bambine. Ma qui, in queste storie, non c'è spazio proprio per l'immaginazione, anche se fortunatamente i numeri e le indagini confermano che solo pochi dei tantissimi che abbaiano dietro un nickname poi diventano effettivamente lupi pericolosi. E questo vale pure per i personaggi pubblici, come il presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha parlato di potenziali stupratori. Ma per definizione, avverte dalla Polizia Postale la psicologa Cristina Bonucchi, chi è più noto è anche più esposto e la sfida è intuire chi potrebbe passare dal virtuale al reale. Forse è difficile determinarlo, nel senso che è chiaro che chi è più esposto mediaticamente, chi non solo come dire, rappresenta se stesso sul web, ma anche una funzione magari importante all'interno, come dire, dello Stato, del funzionamento complessivo di un paese, è più esposto. Questo è abbastanza intuitivo. Certo, è più esposto, ma secondo lei... Al prevedere questo è difficile, però valgono più o meno gli stessi parametri, l'incisività, la violenza, la pervasività delle eventuali minacce e la persistenza nel tempo, l'aggravamento di quello che viene, cioè del tenore delle minacce, cioè tutti gli elementi che in qualche modo ci danno indicazione sul fatto che possa crescere in quella persona l'aggressività, possono essere degli indizi, non necessariamente lo sono. Cioè, nel senso che più spesso può capitare anche che nei confronti di personaggi pubblici diciamo ci si scagli, ci siano persone che si scagli scaglino con una aggressività forte, ma casomai soltanto verbale, insomma. Questo è possibile. È chiaro che il personaggio pubblico è oggettivamente più esposto, più conosciuto, e in più magari per le funzioni che può svolgere rappresenta, ripeto, non solo se stesso ma anche altro, e quindi può diventare l'oggetto di una protesta o di un'aggressività, di una frustrazione che si esprime nei confronti di quella persona che però rappresenta altro. Ecco, dottoressa, sì. Voi avete notato un aumento di questo tipo di aggressività nei confronti di personaggi pubblici o nello specifico di politici? No, sinceramente non so darle questo dato, ma sa, l'aggressività in sé per sé, a meno che non si configura, non ha alcune caratteristiche. Ci muoviamo e agiamo nel momento in cui quello che dicono le persone diventa reato. Certo, nel momento in cui avete già delle denunce, nel momento in cui sono stati già commessi dei fatti, dei reati, sì, no, è evidente. Il tenore di quello che viene detto può costituire il reato. È chiaro, abbiamo bisogno di una denuncia, ma anche il tenore di quello che viene detto consente di sì. Poi ci sono delle specifiche di legge che non ci consentono di agire di iniziativa, ma su denuncia. Fenomeno in preoccupante crescita, dunque, quello della violenza sul web diretta soprattutto contro le donne. Ma restano molto poche le denunce, anche se stanno aumentando, pure grazie alla possibilità di farlo direttamente in un commissariato online. A ciascuno il suo. Mi mandava 200 sms al giorno, postava le mie foto in rete, scriveva commenti pornografici. Si è fermato solo quando il mio nuovo compagno l'ha affrontato. È la storia di Francesca, nome di fantasia, ma potrebbe essere quella di Margherita, di Viola o di Sofia. È la storia di una delle tante donne che vede la rete trasformarsi in un tiro al bersaglio, nello spazio delle aggressioni sempre più feroci, nella prateria delle minacce che dal virtuale possono però passare anche al reale. Per fortuna, come abbiamo sentito nella prima parte di A ciascuno il suo, solo in pochi casi quella violenza esce dallo schermo di un PC connesso per andare davvero davanti alla casa di una donna. Eccoli i potenziali stupratori denunciati dal presidente della Camera, Laura Boldrini. Ci possono essere davvero dietro quei nickname che affollano blog, social network e siti vari, ma non sono però così numerosi. Il più delle volte è una ex l'obiettivo di quella caccia alle streghe, dove i roghi nelle piazze sono stati sostituiti dalla condivisione di foto e video che possono bruciare però proprio come quelle fiamme, se si tratta di scatti intimi di una ragazza, come è capitato ad una giovanissima vittima arrivata ad uno degli sportelli antiviolenza Astra di Roma, Anti-Stalking Risk Assessment, guidato da Anna Costanza Baldri, docente di psicologia alla Seconda Università di Napoli. Ci raccontano di situazioni di atti persecutori appunto subiti anche da diverso tempo, per cui non è che al primo persecuzione la donna si rivolge alla struttura, anzi. E le modalità sono sempre più o meno le stesse, ancora una volta una dinamica di aggressione legata a precedenti rapporti, diciamo anche personali, oppure scattano altro ma tipo anche di la dinamiche? Ma può essere, diciamo così, sono tutte e due le situazioni, sia quella che dice lei, per cui la rete diventa un ulteriore strumento per lo stalking per perseguitare, ok? Quindi ad esempio, quindi, facciamo degli esempi, cioè lo stalking da parte delle ex si traduce rimane, in foto. Sì, soprattutto Facebook, è molto sui social network, per cui la diffama online, altre case, situazioni, adesso mi viene in mente uno di questo che aveva preso le foto della sua ex che si erano fatte in momenti di intimità consenziente e l'ha messa online con il numero di telefono dicendo chiamatemi, se vabbè, insomma se adesso non andare nei dettagli, comunque diciamo offrendo prestazioni su un sito di appuntamenti, le ha messo il numero e la foto di lei, diciamo, no? Ovviamente senza che lei lo sapesse ne fosse d'accordo. Oppure mettere dei video, addirittura io mi ricordo di una ragazza, tra l'altro lei l'ha scoperto perché cominciavano a chiamare, questo aveva messo dei video, peraltro anche costruendo, quindi può essere, cioè dei video personali che erano stati messi sul web con un montaggio? Sì. Ma poi dipende dalla fantasia e dall'abilità dello stalker. E questo sempre da parte e sempre da parte di ex? Questo, adesso stiamo parlando di questa tipologia. Quindi lo stalker è uno strumento in più, cioè così come viene sotto casa o manda messaggini col cellulare, la rete diventa uno strumento in più e anzi devo dire per lo stalker quasi più efficace, perché la rete diventa un modo più diretto e invasivo per certi aspetti. chi è anche molto più economico, no? Perché tu da casa... Certo, e arriva anche a molte più persone. Però appunto, come dicevamo, al di là delle dinamiche, diciamo, che poi sono quelle che a volte poi possono anche degenerare nelle forme più estreme, anche di femminicidio, che il più delle volte maturano all'interno di una separazione, di una relazione, c'è anche però un fenomeno sempre più crescente, tornato adesso anche d'attualità dopo le aggressioni anche al Presidente della Camera, alla Ministra Kyenge, ma al di là delle vicende politiche, di aggressione a personaggi noti o comunque un'aggressività anche di natura sessista. Ma guardi, le faccio un esempio anche nel mio caso stesso. Io scrivo un blog, non so se ha mai visto quello della 27esima ora, ogni tanto scrivo dei pezzi. Certo. Se lei legge i commenti, c'è sempre su questa cosa per cui tu, o anche un altro video che io ho su un'intervista che mi hanno fatto sullo stalking, commenti, ovviamente non tutti, però dicevo, ci sono sempre commenti in cui vanno a offendere e parlare sempre della dimensione sessista, cioè mentre il commento fatto all'uomo anche in merito a quello che dice è, che ne so, tutta più gli dice sei stupido, non capisci niente, sei cretino, no? La donna va a colpire, anche se parla di tutt'altro, un aspetto invece sessuale, se è una frigida piuttosto che ha le labbra strette, mi ricordo uno, ha le labbra strette, vuol dire che, cioè, tutto che riconduce a dimensione sessuale. Una ragazza che riceve telefonate con richieste sessuali, una donna che vede il suo nome associato a commenti pornografici, alla mercé di tutti. Dentro ai confini sterminati della rete, che per definizione è uno spazio senza confini, anche se a molti ancora appare circoscritto alla durata della connessione e all'apparente paravento di un'identità virtuale, dentro quello spazio si consuma dunque una violenza enorme, che di virtuale non ha praticamente nulla già nell'atto in sé. E poi quelle parole, quella pioggia di insulti, condivisi ogni volta con migliaia di followers e di amici o pseudotali su Facebook, contribuisce davvero a rendere tutto sempre più possibile e più accettato, e rischia di armare pure la mano di qualcuno? I criteri per far suonare l'allarme, spiega Cristina Bonucchi, psicologa della Polizia Postale, sono precisi. E questi dicono che talvolta purtroppo succede. Forse è difficile determinarlo, nel senso che è chiaro che chi è più esposto mediaticamente, chi non solo rappresenta se stesso sul web, ma anche una funzione magari importante all'interno dello Stato, del funzionamento complessivo di un paese, è più esposto, questo è abbastanza intuitivo. Certo, è più esposto, ma secondo lei... Al prevedere questo è difficile, però valgono più o meno gli stessi parametri che abbiamo valutato, cioè a cui ci siamo riferiti prima: l'incisività, la violenza, la pervasività delle eventuali minacce e la persistenza nel tempo, l'aggravamento di quello che viene, cioè del tenore delle minacce, cioè tutti gli elementi che in qualche modo ci danno indicazione su quanto e sul fatto che possa crescere in quella persona l'aggressività, possono essere degli indizi, ma non necessariamente lo sono. Cioè, nel senso che più spesso può capitare anche che nei confronti di personaggi pubblici ci si scagli, ci siano persone che si scaglino con una aggressività forte, ma casomai soltanto verbale, insomma. Questo è possibile nei confronti di personaggi pubblici, come anche, è chiaro che il personaggio pubblico è oggettivamente più esposto, più conosciuto, e in più magari per le funzioni che può svolgere rappresenta, ripeto, non solo se stesso ma anche altro, e quindi è chiaro che rappresentando anche altro può diventare l'oggetto di una protesta o di un'aggressività, di una frustrazione che si esprime nei confronti di quella persona che però rappresenta altro. Ecco, dottoressa, voi avete notato un aumento di questo tipo di aggressività nei confronti di personaggi pubblici o nello specifico di politici? Non so darle un dato, no, sinceramente non so darle questo dato, ma sa, l'aggressività in sé per sé, a meno che non si configura, non ha alcune caratteristiche, ci muoviamo e agiamo nel momento in cui quello che dicono le persone diventa reato. Quindi, certo, nel momento in cui avete già delle denunce, nel momento in cui sono stati già commessi dei fatti, dei reati, sì, no, è evidente. Anche il tenore di quello che viene detto può costituire il reato, indipendentemente dal discorso che è chiaro, abbiamo bisogno di una denuncia, ma anche il tenore di quello che viene detto consente di sì. Poi ci sono delle specifiche di legge che non ci consentono di agire di iniziativa, ma su denuncia, cioè, le minacce, eccetera, hanno bisogno di una querela di parte, cioè, qualcuno deve dire di essere oggetto di, altrimenti a noi non arriva. Il problema di tutto questo è che sono poi le più giovani, quelle che poi statisticamente passano pure più tempo connesse, quelle più a rischio, sono le ragazzine, le adolescenti. Sono una parte significativa di quel 90% di insulti a sfondo sessista registrati nella rete, come abbiamo sentito all'inizio di questa puntata. E abbiamo pure già sentito anche che, se in aumento, anche se raddoppiate, le denunce restano però molto poche, troppo poche e a volte tardive. Stanno però aumentando con il commissariato online aperto dalla Polizia Postale, dove arriva di tutto, racconta il direttore del reparto investigativo Carlo Solimene. È possibile segnalare tutte quelle che sono le patologie sul web e quindi a maggior ragione anche tutti i casi che riguardano femminicidio, lo stalking, le minacce, le ingiurie. State ricevendo segnalazioni? Che tipo di segnalazione avete avuto? Perché è interessante ovviamente una possibilità di fare delle denunce online. Di tutto, molte volte anche il solito consiglio del caso, magari prima di pagare una caparra per un'ipotetica casa che verrà magari locata in località turistiche importanti, ci chiedono se questa è la metodologia giusta per operare o magari se c'è da stare attenti di fronte al fatto che magari si parla sempre su un mobile anziché su un fisso o magari che si chiede una caparra su un sistema di pagamento elettronico magari dove non si riesce a capire esattamente il proprietario o il locatore dell'appartamento dove materialmente si trovi. E a voi, e mi rivolgo soprattutto alle ascoltatrici, è mai capitato di essere bersaglio di insulti sessisti sulla rete? E tutti quanti voi che ci state ascoltando, che idea avete di questa aggressione crescente sul web? Se vi va, scrivetecelo sulla pagina Facebook di Storiacce, ricordate Storiacce, o sul blog Storiacce. Su Twitter invece mi trovate all'account Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.